Siamo al penultimo appuntamento prima di Natale con la rubrica dedicata a Pio X, ancora con iniziative legate al progetto Aurora che nelle scuole cerca di conoscere meglio questa figura di santo morto, come sapete, il 20 agosto del 1914, 100 anni dalla morte. Oggi con me tre ospiti, vengono tutti dall'Istituto Filippin: Enrico Sommadossi, Susanna Azzurro e Sandro Pozza. Benvenuto cumulativo a tutti. Grazie. Partiamo da una breve panoramica sull'Istituto Filippin. Enrico è responsabile della pastorale all'interno dell'Istituto. Diciamo due parole su questa realtà. L'Istituto Filippin è 90 anni che è presente nella Pedemontana, celebriamo il prossimo anno anche noi il nostro 90esimo. L'Istituto presenta una serie di possibilità formative che va dalla scuola dell'infanzia all'università, perché abbiamo anche un settore dell'università. I corsi presenti appunto sono la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, con il liceo linguistico e un nuovo liceo che è partito appunto l'anno scorso, e ovviamente anche l'indirizzo del classico e dello scientifico. E come carisma i fratelli delle scuole cristiane è proprio quello di un'attenzione particolare alle povertà, e oggi le povertà sono tantissime e toccare le periferie è proprio il compito anche del carisma lassaliano. Ci sono dei fratelli, ma sono coadiuvati appunto dai laici. L'Istituto ha un piano di pastorale. Piano di pastorale che è a livello nazionale, viene stabilito alcune linee operative e queste vengono poi tradotte con delle attività che possono riguardare sia l'insegnamento, in modo che anche determinati temi vengano anche toccati dall'insegnante di matematica o di scienze o quello che sarà, ma anche attività pratiche che vanno dall'infanzia alla primaria. C'è un piano annuale che viene poi proposto ai docenti. Ed è una realtà insomma particolare che magari altri non hanno e che vi caratterizza. Un'altra cosa particolare, coinvolgo Susanna Azzurro in questo, è il movimento Giovani Lassalliani, di cui tu sei direttamente responsabile. Sì, più che responsabile sono, come dire, accompagnatrice in questo caso, mi piace sottolinearlo in questo modo, perché è un movimento che è presente in tutte le scuole lassaliane d'Italia e del mondo, ed è semplicemente un modo che i ragazzi utilizzano per vivere la scuola in prima persona, perché l'MGL, così lo chiamano, cerca di tradurre quelli che sono i pilastri della scuola lassaliana: la fede, la fraternità e lo spirito di servizio, essendo sale all'interno della scuola, quindi proponendosi nello svolgere attività che permettano e facilitino la partecipazione dei ragazzi nella vita della scuola, proprio perché vogliamo che la scuola non sia soltanto lo spazio dove si entra alle 8 e si esce all'1 e basta, ma sia effettivamente anche una famiglia all'interno della quale si può crescere in mente e soprattutto anche in spirito. Quindi i ragazzi si trovano ogni 2 settimane, si confrontano su delle tematiche che possono andare possono riguardare la fede o la loro esperienza di vita, e promuovono incontri, momenti di preghiera, aiutano noi grandi ad organizzare le attività della scuola, proprio perché insieme, docenti, fratelli e alunni, andiamo tutti nella stessa direzione. Eh sì, se no tutto fa fatica poi ad andare avanti. Arriviamo allo specifico del progetto Aurora su Pio X con il professor Sandro Pozza, giovane professore insegnante di italiano e di religione alle scuole medie, le chiamo erroneamente nella vecchia maniera, insomma, scuola secondaria di primo grado. Ma chiedo scusa della voce, ma siamo appena rientrati con le 2/3 medie proprio dalla gita a Roma, che è sempre impegnativa, anche è sempre vocalmente abbastanza impegnativa. Poi l'entusiasmo anche che sta creando Papa Francesco fa perdere anche la voce, ma questo è un po' anche il contesto nel quale si sta caratterizzando anche l'attenzione su questo Papa Pio X, che grazie a un articolo anche di Romanato, sul quale anche stiamo valutando, che è apparso su Avvenire a fine agosto, stiamo un po' mettendo a confronto la figura di Papa Francesco con la figura di Papa Pio X, e stiamo elaborando un progetto dal titolo Scarpe parlanti. Siamo partiti dalle scarpe che indossava Pio X e abbiamo visto, come si dice, il modo anche di utilizzare le scarpe di Papa Francesco. Un'espressione di Papa Pio X ci ha accompagnato in questo. Disse un giorno Papa Pio X: io ho bisogno di conservare le scarpe, non di consumarle. La pelle, se si guasta, ritorna, ma le scarpe costano. da una parte Pio X, da quell'altra parte Papa Francesco, che utilizza che cosa? Delle scarpe con i lacci e di pelle nera. Quindi sono il progetto nostro è caratterizzato da questa intervista delle scarpe parlanti, nelle quali abbiamo cercato di individuare 5 punti salienti dei due pontificati, vedendo come cambiano gli anni, passano i secoli, ma l'atteggiamento anche di colui che in un certo senso rappresenta e continua e porta avanti l'immagine di Gesù è sempre la stessa. I 5 ambiti sui quali stiamo lavorando come intervista è il fatto delle umilissime origini di questi due pontefici, la provenienza comunque periferica rispetto a Roma, certo voglio dire Riese Pio X non è, voglio dire Buenos Aires, ma comunque siamo spostati anche come baricentro rispetto a Roma, l'estraneità rispetto anche all'ambiente curiale, tutti e due voglio dire i due pontefici che erano parroci tra virgolette, uno nelle periferie di Buenos Aires e Papa Pio X sappiamo come esperienza a Tombolo e in varie anche parti della nostra diocesi di Treviso. Poi in un certo senso anche una insofferenza per un certo tipo anche di trionfalismo, quindi qua anche i ragazzi sono abbastanza critici perché se c'è una cosa anche che i ragazzi valutano sempre è un certo senso la coerenza anche della Chiesa. E l'ultimo aspetto è lo stile di vita sobrio e un po' dimesso e forse anche un'interpretazione un po' più pastorale rispetto anche al magistero del ruolo petrino. Quindi due figure molto distanti ma che si... anche che hanno, punti in che hanno molti punti in comune. Anche gli studiosi i recenti convegni ne avevano evidenziati altri, ma questo è un altro interessante. Concretamente poi cosa produrrete alla fine del percorso? Allora noi stiamo realizzando e stiamo lavorando su due ambiti, un PowerPoint che appunto raccoglie immagini della terra di Riese e poi delle immagini che in questi giorni proprio abbiamo scattato a Roma e quindi anche un po' la figura di Papa Francesco messa in parallelo con la figura di Papa Pio X e poi una breve drammatizzazione, quindi anche una rappresentazione teatrale in cui si intervistano veramente questi due tipi di scarpe che poi vengono anche a rappresentare le due tipologie di vita di questi due pontefici. La vedranno anche tutti gli altri alunni del Filippin? Certo, saranno coinvolti perché è sì la scuola media che propone, la scuola secondaria di primo grado, ma è un progetto molto più ampio che si inserisce all'interno del piano di pastorale. E allora, anche voi sarete curiosi di vedere e di conoscere certo. questo aspetto. Grazie allora a Susanna Azzurlo e Enrico Somadossi e Sandro Pozza dell'Istituto Filippin. Fin d'ora buon Natale a tutti e poi ci risentiremo per la fine del progetto Aurora. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Arrivederci. Grazie.